Non voglio raccontarvi il contenuto di questo libro, voglio raccontarvi qual era l'intento di questo libro, come è nato, quindi quali domande aveva in testa e anche quali domande mi sono state rivolte quando mi è stato chiesto di curarlo e che tipo, in un qualche modo, di non di risposte, ma di domande mi sono fatto io per rispondere a quelle domande. Allora, tutto nasce 5 anni fa, a un certo punto Giovanni Filoramo, che aveva appena finito di curare per la terza una storia delle religioni, decide che la risposta, come dire, culturale alla emergenza del religioso in Italia sia quella di interrogare le religioni come apparati culturali e non come apparati teologici. E quindi di riflettere in termini di storia culturale e non solamente appunto di storia dei credi o delle fedi. Per cui convoca un tavolo a Einaudi con un progetto abbastanza indeterminato in quel momento e chiama una serie di persone, per una serie di casualità mi viene chiesto un pezzo su Repubblica che esce nel marzo del 2005 e lui il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero disposto a farlo, questo problema sull'ebraismo. Allora, le domande da cui sono partito, che voi troverete in quell'indice, che io considero un indice riuscito per metà, e quindi un libro riuscito anche per metà, nascono da un editoriale che Sylvia Ann Goldberg scrive per un numero dell'Les Annales del 1994, quando cura un numero sulla storia degli ebrei e sulla storia ebraica, dove lei distingue tra la storia ebraica intesa come storia fenomenologica di una religione e una storia degli ebrei come storia comportamentale di soggetti nella storia. E all'inizio di quell'introduzione sostanzialmente lei dice: il problema è che la maggior parte della riflessione sulla storia ebraica è una riflessione, come dire, su un codice, non è quasi mai una riflessione sugli individui nella storia. O meglio, se è una riflessione sugli individui, è una riflessione su quello che gli individui hanno subito nella storia, in alcune aree geografiche, in alcuni sistemi politici. E quindi il punto di partenza è come io prendo e considero alcuni fattori di storia di un gruppo che di per sé è fatto di tanti soggetti, distribuito geograficamente, difficilmente rinchiudibile in una sola categoria, con alcune caratteristiche date e definite. Allora, il primo punto di partenza era tentare di rispondere a questa domanda e non svolgendo necessariamente un impianto di tipo teologico, cioè quindi eliminando il dato di sistema di credo teologico. Allora, il passaggio immediatamente successivo è stato quello di tentare di definire quali erano gli ambiti di quel ragionamento. Allora, per tentare di definirlo, io ho provato, non da solo, ma con 2 o 3 persone che mi sono andato a scegliere nella costruzione di quell'indice, queste 2 o 3 persone fanno tutte parte di quell'indice, una è un italiano, una è un tedesco che vive a Gerusalemme e uno è un professore con cui io ho avuto una sorta di, che è stato per certi aspetti un inizio di riflessione all'inizio degli anni 90. Queste 3 persone per neanche nominarle, evidentemente non è nessun segreto. Uno si chiama Alessandro Guetta, è una persona con cui io praticamente ho passato 12 anni della mia vita da un punto di vista culturale, emozionale, giovanile, che ha fatto delle scelte, culturali simili alle mie e anche diverse dal punto di vista della disciplina. Tutte e due abbiamo... Ve le do questi particolari semplicemente perché credo che siano importanti capire come uno ha provato a riflettere, a costruire una Roma. Il motivo per cui ve le do è perché io penso, e non lo dico per orgoglio, e nemmeno per presunzione, è che io credo che prima di questo libro la parola ebraismo in Italia potesse coniugarsi solamente a alcuni dati e venisse guardata, identificata solamente con alcune cose. Dopo questo libro, secondo me, la parola ebraismo deve tentare di coniugarsi con altre cose. È uno dei motivi per cui, per esempio, dentro quel volume non c'è un rabbino. Io non lo volevo lì dentro, tanto per essere chiari. Ma non per un'incompetenza, ma perché questo avrebbe tentato di definire qual era il punto di partenza che invece doveva essere discusso. Cioè io penso che il mondo ebraico e l'ebraismo siano un insieme di codici disciplinari, culturali, testuali e analitici che non corrispondono a un solo modello interpretativo. Mentre invece il mondo classico, rabbino novecentesco, pensa che ci sia un solo codice che giustifica l'apparato culturale, giustifica l'apparato comportamentale, giustifica la storia e la cultura. E secondo me lì c'è un errore concettuale, a priori. Quindi, dopodiché, anzi, l'unico, gli unici due con laurea rabbinica che ci sono in quel testo, e cioè nomi, detti per nome e per cognome, Gianfranco Disegni e Alfredo Mordecai Ravello, ci sono esclusivamente in funzione delle loro competenze disciplinari pubbliche. Ovvero, il primo c'è perché è un biologo e quindi gli è stato chiesto un pezzo di analisi su cos'è la bioetica. Poi, dopodiché, lui se l'ha interpretata come voleva. Però a me interessava che ci fosse un pezzo che partiva da una domanda. Non che si ponesse il problema con un testo che ti hai di fronte, dunque ti poni il problema della biologia rispetto a quel testo, la bioetica. No, alla rovescia. Cioè tu parti dalla tua competenza disciplinare e poi ti lascio tutta la libertà di discuterla come vuoi. Cioè, quindi non è che io presumo che ci sia un tribunale che decide del tuo modello interpretativo, però si parte dalla tua competenza dichiarata. Il secondo è un docente di diritto pubblico e diritto romano all'Università Ebraica di Gerusalemme, ma io gli ho chiesto di fare un pezzo sul diritto ebraico e diritto israeliano, non interpretato dal punto di vista del mondo rabbinico israeliano, ma bensì dal punto di vista giuridico e giurisprudenziale di un'esperienza politica. Quindi dove erano importanti avere delle competenze, ma erano anche importanti altri tipi di competenze, in cui preliminarmente valevano le competenze di carattere giurisprudenziale. Così come la terza persona con cui l'ho ragionato si chiama Christoph Schmidt, è l'autore che chiude quel volume. Christoph Schmidt è stato un allievo di Stefan Moses all'Università Ebraica di Gerusalemme, insegna oggi filosofia ebraica contemporanea. Il motivo per cui gli ho chiesto di fare un pezzo sul pensiero mistico è che io non volevo, e non l'ho chiesto per esempio, tanto per dire nomi e cognomi diretti, non l'ho chiesto a Giulio Busi, è perché non volevo un'interpretazione teologica, io volevo un'interpretazione filosofica sulla mistica, e quindi volevo un confronto con le componenti che nascono dalla teologia politica, cioè volevo uno che mi ragionasse con Taubes, ragionasse su cosa significa il confronto con Carl Schmitt, non che ragionasse su quelli che sono i commentatori interni al mondo talmudico e midrashico, e quindi mi desse delle spiegazioni dal punto di vista del testo che partivano da quelle competenze. No, dovevano darmelo da altre competenze disciplinari. Allora, quando è stato costruito, diciamo così, questo libro, il primo tentativo è stato quello di dire, va bene, come provi a spiegare un fenomeno che non vuoi spiegare dal punto di vista normativo e della sua storia normativa? Ma la vuoi spiegare dal punto di vista della sua storia culturale e quindi di quelle che sono le costanti, per cui il principio è non dimostrare che c'è un elemento filogenetico dell'identità di quel concetto, ma c'è una struttura di carattere, come dire, ibridato di quel concetto. Per cui l'elemento fondamentale si parte intanto, per esempio, da una cosa che nel mondo ebraico, quando si discute di identità ebraica, non esiste, ed è un atlante storico, cioè una mappa. Il motivo per cui l'introduzione a quel libro si chiama Mappe è esattamente questo. Cioè c'è una copia da Eviatar Zerubbabel, di cui è uscito per il Mulino, era uscito nello stesso periodo per il Mulino, un libro intitolato Mappe dell'identità contemporanea, però il tema che mi interessava era mettere al centro di quella discussione un atlante storico e capire come un atlante storico funziona, perché quell'atlante storico probabilmente è leggibile, guardabile, non solo ed esclusivamente come storia delle fughe. Allora, il motivo per cui ho distribuito una mappa, che voi vi troverete lì, no, almeno si riesce a capire il motivo e il modo in cui secondo me va ragionato su quella mappa è questo. Se voi prendete quella mappa, in quella mappa ci sono tre ellissi che ragionano, come dire, sul modello di diffusione dei movimenti messianici moderni, cioè fra 500 e inizio 700. Ora, se uno prende quelle mappe, considera quello, è una di quelle, prego, prego. Se uno considera semplicemente l'espansione geografica di quell'ellisse, questa mappa ti dice c'è un centro, c'è un centro del fenomeno, questo centro ha una espansione geografica di un certo tipo, che io posso pensare come quando butto il sasso in uno stagno, perché in un punto è più intensa e man mano che si espande è sempre meno intensa. Questo è quello che ti racconta questa mappa. Se guardi semplicemente, si trova il volume da cui è presa, non l'ho elaborata io questa mappa, è copiata da una, è fotocopiata da una, da un volume che si chiama Atlante Storico, l'ha curato Eli Barnabi, è uscito per Zanichelli in Italia a metà degli anni 90. Allora, in questa mappa, quello che la prima cosa che vedi è l'elemento espansivo. L'altra cosa che ha come caratteristica, c'è un'altra caratteristica che hanno questi tre movimenti, due sono omologhi tra di loro, uno invece è diverso rispetto agli altri, cioè quello di Molko e quello di Jacob Frank hanno una caratteristica che sono legati a una figura centrale, per cui eclissata quella figura, di fatto quel movimento e quell'istanza si perde o quantomeno si attenua. Il movimento sabbatiano ha invece altre caratteristiche, e cioè vive anche di un altro tipo di fenomeno che non è solamente messianico del sabbatianesimo, ma vive del concetto del re nascosto, della potenza, la leggenda del re nascosto è quella per cui il re scompare ma rimane vivo il fatto che il re ritorni, o si aspetta, o tutti si aspettano che il re ritorni, e la sua scomparsa in un qualche modo è funzionale al fatto stesso di tenere uniti i soggetti che ne fanno parte di una setta. Ora però il dato fondamentale non è questo, il dato fondamentale è dato da questo fatto, che il movimento più esteso, cioè quello sabbatiano, accentua una caratteristica che hanno anche gli altri due, e la caratteristica è questa, che i luoghi di diffusione e quindi di impiantamento territoriale dei movimenti messianici non sono contigui. Cioè, se voi passate da un luogo a un altro luogo allontanandovi dal centro, non trovate una attenuazione del fenomeno dal punto di vista numerico, ma trovate in mezzo delle aree che, laddove quel fenomeno è presente, sono basse. E alle volte, nel cerchio o nell'ellisse più lontana dal centro, quel fenomeno invece numericamente è consistente, cosa che non dovresti pensare che invece non sia così. Allora, questa cosa, secondo me, ti pone un problema interpretativo. Cioè, dice, com'è che un fenomeno si espande senza necessariamente essere un fenomeno espansivo per contiguità? Allora, quella cosa che devi correlare all'espansione massima di quel fenomeno è invece una geografia della diffusione dei gruppi familiari, che è una cosa diversa dall'espansione puramente per prossimicità geografica. E ha in testa invece il modello di come te fai sistemi di relazione in territori più vasti. Vi do un esempio. Dopo Smirne, il posto dove il fenomeno sabbatiano è più forte in Occidente, dopo Smirne. In parte Salonicco, ma molto in parte. Dopodiché sono Livorno e sono Amsterdam. E non perché, non è un problema di forza della, uno potrebbe dire, c'è un problema di forza della presenza, di una contestazione di un certo tipo. È vero e non è vero, cioè non dipende né da Spinoza né da Uriel da Costa, non è un fatto di grandi personalità, è un fatto di reti familiari, come funziona il sistema rete. Allora, se questa roba è vera, il primo dato che a me interessava sottolineare in questo esempio, che fornisce secondo me un modo di interpretare i sistemi di relazione, è quello di dire, uno dei sistemi di relazioni che tu hai nella modernità è, per esempio, ti obbliga a pensare per sistemi rete. E se ti obbliga a pensare per sistemi rete, in quei sistemi rete cos'è che gira? Quali sono gli strumenti che passano in quei sistemi rete? E soprattutto qual è la geografia che ne tiro fuori da quei sistemi rete? Secondo punto, che è un approccio completamente diverso da questo, cioè quello di dire, a me sembrava che se si considerano non un unico modello di costruzione comportamentale del mondo ebraico, ma si considerano varie aree geografiche, in quelle varie aree geografiche ci sono dei modelli tra loro diversi, contemporaneamente ci sono dei modelli tra loro diversi, che producono testi diversi e producono anche riflessioni tra loro diverse. Allora, una delle cose che mi sembrava necessario andare a indagare era cos'è, una volta che tu rompi un quadro classico di tipo medievale, ammesso che nel quadro classico medievale ci sia omogeneità, cosa che anche lì è molto discutibile, ma ammettiamo che sia così, per un attimo. Cosa accade una volta che tu rompi il quadro e improvvisamente hai uno spostamento numerico di grandi masse lungo l'asse del Mediterraneo. Secondo me si delineavano varie ipotesi di crescita culturale e di scontro culturale all'interno del mondo ebraico, che significava dire ogni volta tu lo devi misurare sul contesto interno col quale quello si trovava in, tra virgolette, in conflitto, in sintonia, oppure comunque a assorbire modelli culturali. Allora, anziché dire, benissimo, te hai un processo classicamente emancipativo, sociale, culturale, a me sembrava più facile provare a confondere il quadro e prendere alcuni modelli insediativi territoriali e provare a ragionarne. Il momento metodologico di partenza per poter fare questo ragionamento, e così vi dico qual è la terza persona con cui in parte è stata ragionata all'inizio l'indice di questo volume, era quello di andare a vedere come funzionano, non delle categorie generali di riflessione, ma come funzionano alcuni luoghi di riflessione se tu metti insieme delle storie intellettuali, mentali, culturali e anche, come dire, sociali. La persona era Michel Lévy, io Michel Lévy l'ho conosciuto nel 1991 quando per una serie di, come dire, per totale casualità Alfredo Salzano mi ha messo a mano un libro Redenzione e Utopia e mi ha detto prova a tradurre questo libro. In realtà era un apprendistato per provare a studiare un fenomeno da un altro punto di vista, per cui con Michel Lévy ho cominciato a lavorare semplicemente all'epoca per telefono, una posta elettronica, a quel tempo non esisteva, insomma, comunque era un fenomeno molto elite. Per cui con lui mi sono trovato varie volte per tentare di risolvere dei passi di questo libro che erano assolutamente per me incomprensibili. Però siccome erano Michel Lévy è una persona che ha almeno per come l'ho conosciuto mi è sempre sembrato una persona molto disponibile a chiacchierare, cioè non in cui una persona che dà molto di sé. Allora, in realtà questo il momento in cui mi sono trovato con lui per capire, per tradurre questo libro dal francese in italiano, sono state anche delle grandi lezioni da parte sua, fatte in gran parte in un caffè, cioè perché Michel Lévy è uno che è, da questo punto di vista è totalmente anti-accademico, cioè il suo luogo di riflessione è un bar. Allora, e da lui una delle cose da cui ho imparato era quello di ragionare, come dire, non per concetti astratti, ma per come si mettono insieme percorsi di vita che hanno dietro di loro letture, vicende, rotture soprattutto, precedenti, che si trovano non perché pensano la stessa cosa, ma perché hanno la stessa, tra virgolette, sensibilità rispetto a un fenomeno. Allora da lì è venuto fuori, come dire, questo quadro iniziale, geografico, che era quello di ragionare, come dire, per quadri che fossero fra loro lontani, non omologabili. Io ne ho provati a produrre quattro all'inizio di questo libro, cioè ho preso un quadro italiano che è stato il 500 e il 700, e il problema è come in quel quadro vengono tradotte in italo-giudaico cose che si trasportano in parte dalla Spagna moresca, in parte dall'Impero Ottomano, in parte che viaggiano come dire, dal centro Europa, perché esiste un centro in gran parte ignorato nella cultura italiana, di una produzione culturale a livello anche alto, che ha una forza nel 600 e poi si perde. Per cui la persona che secondo me era più in grado di fare questo, o di provare a farlo, questo, veramente, l'Alessandro Guetta, e per cui lui si è accaparrato questa. La seconda persona era andare a prendere un luogo di rottura invece diverso da questo, quindi era, in questo caso era Amsterdam, era Spinoza, se volete era una cosa più canonica da questo punto di vista. Però il problema era che l'immagine fino a quel momento è che o c'era la tradizione o c'era la rottura. Questo era il quadro che più o meno secondo me veniva fuori, sia dal modello di presentazione di Spinoza in Italia, sia da come era stato fatto, almeno fino a quando Nedler sono cominciato a girare, diciamo, in Italia, i libri di Nedler. E quindi cos'era? Prima ancora che i libri di Yuval su Spinoza. Il terzo era prendere il quadro tedesco prima della scienza del giudaismo, e il quarto era prendere un quadro che apparentemente era esattamente il contrario della modernità. Per cui ho chiesto a Laura Quercioli di fare un ragionamento sull'inizio del movimento cassidico come risposta alla modernità, ma che sta dentro la modernità, non che la rifiuta. Perché uno degli elementi, secondo me, in cui noi dobbiamo ancora risolvere culturalmente oggi il rapporto con i movimenti di massa di tipo teologico, di ribellione, e anche quello di pensare che quelli sono parte della modernità e non semplicemente sono delle repliche di tipo tradizionale a un rifiuto della modernità. Siccome il movimento cassidico non nasce perché racconta dei bellissimi racconti fantastici, ma il movimento cassidico nasce su una rivolta che dice chi è autorizzato e come è autorizzato a fare la macellazione rituale. Cioè su un dato molto tecnico, così come tutti i movimenti di radicalismo religioso della seconda metà del Novecento nascono su un dato di, come dire, di non riconoscere l'autorità a qualcuno che l'ha esercitata fino a quel momento, perché viene ritenuto non più rispondente ai canoni fondamentali dell'ortodossia, perché associa questa sua ribellione a un modello di movimento che è totalmente diverso dal modello classico in cui si esercita l'autorità. Però questi due aspetti si incrociano, e secondo me un elemento di grande modernità stava esattamente nelle origini del movimento cassidico. No, non perché raccontava i racconti dei cassidini alla Buber, no, perché aveva un elemento sociale e culturale di rottura sul modello, che era un aspetto, a mio modo di vedere, molto intrigante. Dopodiché, ecco, cioè, domandarsi qual era la modernità, lì dentro, secondo me, voleva dire andare a scegliere alcuni percorsi. Che, a mio avviso, alcuni sono riusciti, altri no. Voleva dire andare a capire, per esempio, non scegliere la rivoluzione francese come elemento di modernità. Perché la rivoluzione francese, secondo me, per il mondo ebraico, ha voluto dire una emancipazione a cui il mondo ebraico in gran parte non partecipa. Il problema era, una volta che tu hai avuto l'emancipazione giuridica, il problema era, tu ci stai a quell'emancipazione giuridica e come ci stai? Ed è il motivo per cui lì dentro non c'è un saggio sulla rivoluzione francese, ma c'è un saggio sul sinedrio napoleonico, che è il momento in cui tu devi decidere se tu ci stai in quel processo, lo subisci e basta, ma tu lo decidi. Poi aveva un carattere di autorevolezza, perché non è che se Napoleone ti desse la possibilità di decidere se ci volevi andare o no, ovviamente, però lì avviene una spaccatura interna, diversa da quella che avviene nel 1791 sulla prima legge emancipativa, perché lì si trattava semplicemente di ricevere, l'altro si trattava di costruire un sistema giuridico di cui tu eri coinvolto e responsabile, quindi in un qualche modo si trattava di stabilire se tu ci stavi oppure no, e la maggior parte del mondo ebraico, in questo caso italiano per esempio, che va al Sinedrio di Parigi, ci va ob torto collo, non ci va perché ci vuole andare, tant'è che la maggior parte di loro quando tornano in Italia alla fine del Sinedrio assolutamente si rifiutano ad applicare ciò che hanno deliberato a Parigi, perché il loro problema è come si mantiene la governance interna. Lo stesso vale sul sistema educativo, voleva dire per esempio nel corso dell'Ottocento costruire un sistema scolastico che era non più come tu costruisci un sapere, ma una volta che tu rompi il quadro sociale e quindi i legami sociali che stanno dentro il ghetto, che tipo di sistema educativo, quindi anche professionale, tu costruisci per dare chance di emancipazione sociale a chi non sta più dentro il sistema del ghetto, perché quello è il modello su cui te costruisci le scuole ebraiche tra 800 e il primo 900, e per cui le prime scuole ebraiche sono in gran parte scuole di tipo professionale, oppure sono, perché una struttura come l'Alliance pensa a una scuola professionale nell'area siriana, nell'area egiziana, cioè laddove, come dire, la Francia è presente, ma la pensa di nuovo dentro il processo che è quello delle scuole professionali di tipo manuale, dove tu non hai, mentre invece noi pensiamo sempre, o almeno l'immagine iconica classica è quella di pensare che il modello educativo sia quello del cheder polacco. Il cheder polacco, cioè quello dove tu studi più o meno teologia in senso tradizionale, non è la scuola pensata come scuola di formazione in quel tipo di tradizione. Lo stesso, cioè, ed è il motivo per cui poi in maniera più o meno riuscita ho provato a fare un ragionamento per esempio sui conservative americani, che sono il vero prodotto del mondo ebraico americano, perché gli altri sono prodotti del mondo ebraico che arriva negli Stati Uniti. Il movimento conservative è un movimento che nasce negli Stati Uniti, che ha i suoi luoghi di produzione negli Stati Uniti e che dagli Stati Uniti esce e si trasforma, arriva in Israele, arriva in Europa, ma non si forma qui per andare là. E dopodiché c'erano alcune questioni, diciamo, che mi interessavano. Una di queste, per esempio, era qual era la professionalità di figure come i rabbini, come cambia il modello analitico e di commento dentro un testo, cosa significa un oggetto testuale come i catechismi ebraici, una roba che credo pochissimi sapessero l'esistenza, quando in gran parte il mondo culturale medio degli ultimi 150 anni su quel tipo di testo si è formato. Voi prendete un testo fondamentale che è le preghiere di un cuore israelita, che è Si chiamano catechismi perché sono uguali a catechismi cattolici, sono costruiti nella stessa maniera, hanno la stessa funzione, rispondono allo stesso tipo di testo. E secondo me non c'è un elemento, come dire, di scarsezza di valore. Cioè il fatto che quel tipo di testo ha formato l'immaginario collettivo di quattro generazioni, tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento. Cioè fino a che non è esistito la produzione di immaginario collettivo determinata dalla mitologia e dalla letteratura israeliana negli ultimi 40 anni, quei tipi di testo hanno formato quattro generazioni di bambini fra l'età di 6 anni e l'età di 15 anni. Cioè, gli hanno spiegato come si scriveva in una lingua, gli hanno spiegato che parole dovevi sapere, gli hanno spiegato cosa significava andare in sinagoga, gli hanno spiegato qual è la loro identità. Allora, se tu vuoi ragionare su come si formano, qual è la storia degli individui, il punto di riferimento non è né Heschel, né Martin Buber, né Gershom Scholem. Cioè, quelle sono letture che fanno 3 persone su 100, ma le altre 97 si sono formate su quel testo lì, e te quel testo lì devi andare a vedere come funziona, se no stai parlando di persone astratte, non parli di persone reali. Dopodiché ci sono moltissime altre cose che dentro a questo libro non sono entrate, e che secondo me sono anche un'occasione perduta, ma uno poi le farà anche forse delle scelte. Io ve lo dico perché credo sia anche giusto dire dove uno ha fallito o dove uno è mancato. Prima questione su cui mi piacerebbe, non dico stasera, ma ve la butto lì semplicemente, perché quello è un tema. Io credo che da questo libro rimanga ancora un'immagine fortemente eurocentrica del mondo ebraico. E invece noi bisogna cominciare a ragionare in un rapporto che esce dall'Europa, esce anche dall'Africa del Nord, e ha presente un soggetto di rielaborazione fortissimo dal punto di vista dell'immaginario nell'America iberica. E cioè dentro un mondo che in gran parte è di seconda, se non di terza emigrazione rispetto ai luoghi di provenienza culturale originali, che è passato per varie tappe prima di arrivare lì, e lì si è costruito tantissimo di altro tipo di immaginario che nemmeno noi oggi immaginiamo, che ha scarsissima cittadinanza culturale, che è pensato come un luogo privo, come dire, che non ha umiltà, che sembra vivere il riflesso, ma che riguarda oggi una fetta secondo me consistente del mondo ebraico attuale. Che ha una storia molto diversa dal mondo ebraico nordamericano e sicuramente anche molto diversa dal mondo centroeuropeo, anche se i loro nonni o i loro bisnonni vengono da lì. Secondo, non c'è un saggio specifico, e secondo me un altro buco di questo libro, su anche come percorsi di un gruppo o percorsi individuali di una storia di genere, e cioè di un'esperienza al femminile, ma si potrebbe dire anche di un'esperienza di cosa significa non solamente al femminile generico, ma di due tipi di storia di genere. Il primo è qual è l'esperienza e la rappresentazione di sé che hanno le donne dentro il mondo ebraico, e soprattutto quella che è l'esperienza di alcune generazioni o di alcune condizioni. Vi do solamente un dato. Anni fa, Laurent Postelvert, che è una ricercatrice dell'École des Hautes Études, che si è occupata in gran parte di mondo ashkenazita, ha fatto un bellissimo saggio su le donne professionalizzate ebree francesi di famiglia di provenienza nordafricana, cioè di un tipo di famiglia in cui è fortissimo l'elemento maschile come elemento di professionalità e di dimensione pubblica, che provengono da una famiglia in cui i loro genitori hanno mantenuto quel tipo di comportamento, che sono cresciuti in una struttura di madrelingua francese, cioè sono nate o a Parigi o a Marsiglia o a Lione o a Grenoble, che hanno maturato come prima esperienza un'esperienza di professionalità maturata attraverso l'università, che hanno con una fetta numericamente consistente fatto un matrimonio con un uomo non ebreo, cosa che invece dal punto di vista dell'immagine uno pensa che non sia mai accaduto, e che hanno il problema di come si fa una continuità familiare. Allora, questa roba qua, anziché tradursi per esempio, in strutture di acculturazione. Tipo, vi potrei dire tipo classico, cioè per cui tu hai insomma, i corsi per famiglie dove te c'è cioè matrimoni misti, che è un fenomeno fortemente presente in Italia, in Germania, in Spagna, in parte in Argentina. Nel mondo nordafricano, ebraico-francese si è tradotto invece con una centralità delle nonne, per cui in realtà il meccanismo di tenuta della famiglia è un meccanismo che torna a essere totalmente matrilineare. Ora, questo aspetto che ha delle dinamiche anche molto interessanti nel rapporto maschio-femmina, ve lo prendo con un aspetto totalmente diverso, in un contesto totalmente diverso, ma che presenta lo stesso tipo di fenomeno. Vi parto da un film, poi vi prendo altri due casi, poi mi fermo. Se no mi porto via troppo tempo. Anche... Se voi avete visto Vai e vivrai, non so se l'avete visto, Vai e vivrai è questa storia di questo bambino che come dire, viene dall'Etiopia e arriva in Israele, lui è un bambino non ebreo, la sua mamma lo manda, diciamo. Voi in quel film scoprirete che i maschi non ci sono, anzi i maschi sono le figure più deboli esistenti in quel film, le figure forti dentro a quel film sono le donne, non sono gli uomini sono le figure più deboli in quel film. Perché? Perché la storia dell'emigrazione degli ebrei etiopi in Israele ha significato in gran parte una dissoluzione della figura maschile. La chance di lavoro, perché i lavori che sono stati d'ingresso, e quindi diciamo fra virgolette un tempo sarebbe detto di nazionalizzazione all'interno del modello israeliano, sono state delle offerte di lavoro che riguardavano in gran parte lavori manuali femminili. Questo ha prodotto nelle famiglie una depressione sostanziale diffusa della parte maschile della famiglia, per cui il maschio dentro la famiglia è diventato depresso, alcolizzato, drogato, marginale, mantenuto. Allora, in quel film non c'è solamente la storia di un ragazzino che si integra in un paese, a guardarlo bene, c'è anche la storia, in un qualche modo, di ruoli dentro all'emancipazione e integrazione in un paese. Bene, un fenomeno simile, non con le stesse pesanti conseguenze, ma un fenomeno simile ha riguardato un pezzo del mondo nord ebraico di provenienza nordafricano che oggi, professionalizzato, che oggi vive a Parigi. Il che pone altri un'enorme come dire, metamorfosi di credenze, di sistemi, appunto, diciamo anche di, fra virgolette, di potere. Chi è il centro della famiglia lì dentro? Che cambia completamente le regole di quello come tu ti sei raccontato e di come tu hai costruito il sistema di continuità. Vi prendo un'altra cosa, per esempio, che dentro a questo libro non è entrata, ma che a me sarebbe piaciuto molto che ci fosse, e che ritengo sia un pezzo di come si affrontano alcune questioni sulla modernità. C'è, come dire, un improvviso ritorno del sistema delle lingue, per cui oggi esiste un ritorno non dell'uso, ma dal punto di vista della lingua di comunicazione, quindi non dal punto di vista della lingua socialmente vissuta, come idea del fatto che tu ti dai un'identità, quindi riscopri delle radici o riscopri una tua storia, una tua preistoria che non ti sei mai raccontato, delle lingue, chiamiamole così, gergali di provenienza, possono essere il ladino, il giudesimo, chiamato come vi pare, anche l'iddish. Non significa che queste diventano come delle lingue di comunicazione, sono semplicemente delle lingue in cui ti scopri la tua identità, però servono essenzialmente da un meccanismo, come dire, a fornirti di uno spessore storico che tu non, che un gruppo umano non è andato a cercarsi, che è lo stesso fenomeno che sta dentro ai cosiddetti viaggi della memoria, per cui che non sono i viaggi per cui te vai a Auschwitz, sono i viaggi sul modello di ogni cosa illuminata, per intendersi, dove te vai a trovare dove viveva il nonno, va bene? Bene, quella roba lì non è un fenomeno libresco, quello è un fenomeno che negli ultimi 10 anni ha coinvolto decine di migliaia di persone, che sono il modo in cui queste persone riprendono un rapporto con una storia che non sono raccontati. Allora la domanda è, quanto di quella vicenda, quanto di quel modello, se io lo tolgo, come dire, da una vicenda tragica di emigrazione o di spostamento, riguarda svariati milioni di individui che oggi vivono in un luogo ma che hanno le loro storie familiari o di lunga tradizione sulle spalle in un altro luogo. Ora, e che cosa le fa diventare quella vicenda dal punto di vista culturale, quindi dell'immaginario che te anche ti costruisci nel suo modello identitario, che quindi di nuovo non è più un testo di riferimento, sei te che lo costruisci il testo in cui te diventi la sua identità. Allora, non so se è chiaro cosa voglio dire. Allora, se è così, come dire, è come se tu improvvisamente scoprissi, secondo me, che ci sono varie connessioni che devi mettere insieme, anche quello che tu hai pensato fino a quel momento come argomento, oggetto di una categoria, era, fra virgolette, l'archeologia di una cosa, e improvvisamente scopri che invece il problema è come tu costruisci la sua genealogia, non la sua archeologia autentica. Ne prendo un altro argomento su cui mi sarebbe piaciuto poi smettere, l'ultimo argomento che tocco. Io penso, per esempio, che se si volesse fare una storia culturale di Israele, andrebbe preso un oggetto. E questo oggetto, secondo me, è dato da due dati, cioè è dato da due oggetti questo oggetto. Il primo oggetto è dato dalla storia del dipartimento universitario che di fatto dice qual è stata l'identità della prima università in Israele, cioè dell'università ebraica di Gerusalemme fondata nel 1925. Il dipartimento che nasce è un dipartimento che è di storia ebraica. I tre che lo fondano di fatto, cioè che lo mettono in piedi, sono tre soggetti. Uno si chiama Gershom Scholem, che è il meno interessante fra i tre, secondo me. Uno si chiama Solobaron e uno si chiama Ben-Zion Dinur. Ben-Zion Dinur è stato il ministro della pubblica istruzione e che ha costruito l'apparato scolastico prima della nascita di Israele e che è stato ministro della pubblica istruzione per 15 anni in Israele. Cioè, quindi, se si vuole ragionare di qualcuno che ha costruito, cioè, così come in Italia, se io voglio ragionare su come si costruisce l'identità collettiva e nazionale di questo paese, forse, uno, indipendentemente da quel che fa, di Giovanni Gentile tu dovrai parlare. Beh, allo stesso livello tu devi parlare di Ben-Zion Dinur, di attore di cui nessuno, vagamente qualcuno sa il nome e cognome. Ora, dentro a quella vicenda, una delle costruzioni culturali di quella vicenda si chiama Enciclopedia Iudaica, che è uguale all'Enciclopedia Italiana. Ok? Allora, mi sarebbe piaciuto, ci ho provato, ma non ho trovato la persona che lo scrivesse un pezzo su questa roba, che qualcuno ragionasse su quell'oggetto, perché ragionare su quell'oggetto è molto più significativo che non ragionare vagamente sulla storia del sionismo. Ed è molto più significativo dal punto di vista, come dire, della qualità di cosa tu produci, di cosa rimane in termini di lingue, di parole, di gerarchie dei saperi, in una dimensione che appunto è moderna, perché la modernità è fatta del fatto che a un certo punto qualcuno fa un'impresa collettiva, c'ha un modello culturale, magari anche aperto, e costruisce un sapere collettivo che magari è uno strumento d'élite, sicuramente per la mole che questa ha, ma in realtà contemporaneamente li mette insieme e in corsa molte altre cose, cioè non li mette semplicemente 15 volumi, perché questa era la dimensione iniziale dell'Enciclopedia Iudaica. Allora, secondo me, questa, che è un'impresa di cui per ora esistono solamente due saggi molto specifici, uno in ebraico e uno in inglese, sarebbe stato un ottimo modello per provare a analizzare un fenomeno culturale e un contesto culturale, togliendolo da un'analisi puramente, come dire, dei suoi aspetti ideologici, che era un modo anche di riproporli, degli aspetti ideologici, ma era un modo di riproporli su un oggetto, e quindi non semplicemente su un dato di coerenza o incoerenza, se sono d'accordo oppure no, ma per vedere come tu fondi un oggetto. Lo stesso valeva per andare a prendere, non so, per esempio, come si formano alcuni testi scolastici di quel sistema educativo, quali sono, come dire, che era anche un modo di dire, oppure di vedere che tipo di letteratura si produce in un tempo, che tipo di lettura si dà, che tipo di domande si fanno su alcuni libri. È l'ultimo esempio che vi faccio. Quando Einaudi, 2 anni fa, ha tradotto in italiano La rabbia nel vento, un racconto di un signore che si chiama S. Ischar, che racconta la storia di una unità dell'esercito israeliano nel 1949 che entra dentro un villaggio e espelle la popolazione palestinese. L'ultima scena è che questi vengono caricati su dei camion e vengono portati via. Questo testo in Israele è stato il testo di lettura scolastica per le scuole medie inferiori, il testo del 1949, dal 1952 al 1974. Allora la domanda che mi faccio è: perché qualcuno si è scandalizzato per un libro di Bernie Morris scritto nel 1987? Cioè, c'era proprio bisogno, cioè, era così scandaloso che uno storico ponesse il problema del, allora era il primo libro di Bernie Morris, sull'espulsione e sui conflitti nei vari luoghi, come dire, lungo il confine del sistema stabilito dalla dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1947, per cui tu scoprivi improvvisamente che avevi una storia fatta di una serie di incidenti o una serie di problemi o di accadimenti estremamente problematici. Perché te, che sei cresciuto in quattro generazioni scolastiche in cui hai letto quel libro, come in Italia è stato introdotto e Promessi Sposi a Marco Baldo, se mi ha fatto una domanda mentre lo leggevi, di quale contesto pensavi che quel libro parlasse? Allora, quello che lì dentro, a volerlo guardare, più che uno scandalo, sarebbe stata un'enorme sonda per capire come funziona l'immaginario nazionale, cioè come dire, qual è la capacità di porsi o di non porsi delle domande, con quale bagaglio culturale tu ci arrivi, con quale elemento invece tu non lo guardi. Perché è altrettanto significativo, come dire, del fatto, così come trovo significativo, che nessuno avrebbe mai pensato che dal punto di vista ministeriale, in quel paese, a 3 anni dalla sua nascita, l'allora ministro della pubblica istruzione avesse posto come libro di lettura quel libro di lettura. Va bene? Allora, voglio dire, la realtà è sempre molto più complicata da come ce la costruiamo noi in testa, ma però se ha un senso domandare la complessità della realtà, ce l'ha perché è appassionante domandarselo, secondo me. Forse anche per l'incapacità di dargli delle risposte, però quello è un problema e non è puramente, come dire, non lo risolvo con una questione ideologica. Lo risolvo, se, o almeno provo a risolverlo, se la realtà mi si dimostra essere molto più complicata di come in un qualche modo mi viene consegnata o provo a ricostruirla. Ecco. Allora, se dentro a questo libro c'erano queste robe, io ho provato a metterci questa roba, non è detto, non è assolutamente finito, nel senso, un po' non credo di essere, come dire, che debba finire lì, né che questo libro di per sé sia al massimo. Però quello che mi interessava era provare a ragionare su alcune questioni che vengono date spesso per scontate e invece sono molto più complicate. Questa è più o meno questa operazione. Poi può sta dentro a quel libro, forse se anche cresce dopo e oltre a quel libro anche meglio, cioè, e anche indipendentemente da me, cioè non è che deve essere una roba legata a me, ecco. Però questo era più o meno il profilo. Grazie.